Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. È un last minute imprevedibile, come sapete oggi è esoterico martedì, potremmo aggiungere anche questa caratteristica al martedì di Radio Città Fujiko. Sapete bene la mia passione immensa per i depositi della memoria, seguendo tutti gli appuntamenti incertosa, non solamente estivi, i miei percorsi votivi per quanto riguarda il lavoro in questi amplificatori culturali veramente molto suggestivi. Quindi ci spostiamo nella bizantina Ravenna. La specificità del quartiere d'Arsena, che ha delle caratteristiche da microsensazione continua, viene portato sotto i riflettori con un'attenzione particolare anche riguardante il deposito delle memorie monumentale di Ravenna. E siamo in compagnia di Delia Mattiniera, che saluto. Buongiorno e benvenuta, Delia. Buongiorno. Allora, non sono esenti da digitalizzazione neanche più i miei amati depositi delle memorie, perché a quanto pare è imminente, ci sarà presentazione ufficiale. Ne ho approfittato per darne qualche accenno all'interno del nostro last minute per una realtà, chiamiamola virtuale, che arriva all'interno di questi contenitori assolutamente pieni di vita. A te la parola, Delia, per saperne qualcosa di più. Grazie. Allora, innanzitutto io non mi rammaricherei, in quanto semplicemente aggiunge un altro modo di fruire di alcuni luoghi, alcuni dei quali, come il cimitero monumentale di Ravenna, in realtà sono ancora dei luoghi poco frequentati e un po', sì, diciamo, tra il mistico e il super rispettoso paura. Quindi noi abbiamo fatto questo progetto che si chiama Il Cimitero dal Vivo, che sembra quasi un ossimoro, ed è fatto proprio per collegare la visita, diciamo, analogica, la passeggiata da soli in compagnia, a un veloce e facile raggiungimento di alcuni materiali multimediali come audiostorie immersive, racconti del territorio, una nuova mappa, racconti dei personaggi famosi, e quindi la scoperta della città di Ravenna, della sua storia, anche attraverso i personaggi famosi sepolti nel cimitero monumentale. Quindi questo diventa un diverso modo di visitare i luoghi, ma soprattutto un invito a tornare ad abitare alcuni luoghi, a visitarli, ad essere curiosi, ad approfittare anche dei paesaggi che offre, perché il cimitero monumentale di Ravenna è di fronte al Candiano, quindi anche una vista inusuale rispetto ad altri cimiteri in città. Sì, assolutamente, io lo conosco bene, tra l'altro è qualcosa che porta a un collegamento con diversi elementi, e poi tra l'altro chiaramente con editto napoleonico un po' spostato al di fuori, ma sempre vicino a un aspetto naturale, con questa pineta che ne dà una cornice naturale assolutamente accogliente. La possibilità di saperne di più per quanto riguarda, io li chiamo docenti silenziosi che stanno riposando in questo magici atenei, che così nell'immediato chiamiamo cimiteri, ma che hanno la possibilità, chiamiamolo come valore aggiunto. Io non sono un gran tifoso della digitalizzazione, come avrai capito, chissà, magari questo è un motivo in più per conoscere e per averne una possibilità e approcciarsi, visto questi due estremi, no? Una mia grande passione e invece una mia grande ritrosia, per cui perché no, potrebbe essere un compromesso storico, se vogliamo. Guarda, dirò una cosa che forse ti farà veramente svenire, ma in realtà abbiamo creato anche un gioco urbano, ecco, per visitare, esatto, un gioco urbano per visitare il cimitero, dove la persona, i gruppi, speriamo che siano gruppi a farlo, è pensato per le scolaresche, si dividono in gruppi appunto e hanno delle missioni. Attraverso queste missioni devono guardare, cercare le tombe, trovare indizi, e queste missioni sono tutte relative alle storie che hanno o incuriosito o insomma definito e aiutato a sviluppare Ravenna. E secondo me capisco la retrosia, però allo stesso tempo quest'estate abbiamo fatto un laboratorio con i ragazzi e abbiamo sentito che hanno ancora molta paura di andare al cimitero, o lo vedono come un luogo appunto o creepy per fare con tutta, quindi in realtà il pensiero dietro anche ad utilizzare un gioco urbano è quello di invitare alla scoperta, alla scoperta appunto della memoria del proprio territorio con un linguaggio che forse ai ragazzi è più comprensibile di un testo. Certo, no, ma infatti guarda, la mia ritrosia è in ambito tecnico e digitale, perché per i cimiteri, per me, come ho esplicitato più volte, sono veramente degli atenei dove la cultura, il ricordo, l'emozione, l'aspetto suggestivo, l'architettura, l'attenzione all'ecologia, la comunicazione, l'introspezione e tanto altro sono materie diffuse da questi docenti silenziosi che si fanno ascoltare dentro di noi, e come la letteratura e quant'altro. Adesso abbiamo anche questo aspetto che, tra l'altro, senza creare delle dicotomie, anzi lo porto come valore aggiunto, penso che a breve con gli amici della Certosa parta anche a Bologna un progetto simile, per cui insomma sia a Bologna che a Ravenna ci sono delle possibilità, chiamiamoli valori aggiunti, per poter vivere queste emozioni grazie a degli aspetti a me sconosciuti, ma che indubbiamente per i più giovani sono motivo di attenzione. Sì, purtroppo il cimitero è vissuto, come tu stessa hai criticato, con l'aspetto di superstizione, di allontanamento, mentre invece ricordiamo la possibilità di passeggiate, di poter leggere qualcosa, di poter ritrovare, di poter conoscere, che sono nel silenzio immersivo qualcosa di veramente molto incisivo e profondo. Visto che omelia che ti so fare. Infatti guarda, stavo prendendo appunti, che lo stai descrivendo meglio tu di me, progetto. No, io te lo posso descrivere dal punto di vista emotivo e culturale. Però effettivamente tu sei la parte tecnica. Ok. No, può funzionare. È esattamente quello, cioè se mentre per qualcuno prima si attivava l'emozione e la memoria passeggiando, informandosi e basta, ora sappiamo che col digitale si possono attivare le emozioni anche in un'altra maniera, un percorso audio immersivo in cui senti la voce delle persone che abbiamo intervistato e che raccontano la loro storia e la storia di famiglia, è un buon utilizzo del metodo digitale, secondo me. Certo, no, ma infatti sono io il Don Chisciotte che lotta contro i mulini a vento, non è quello, sono io che mi faccio autocritica, però sai, il format è me stesso che ho condotto e creato, il contenitore Breakfast Club, è contraddistinto da una grande onestà intellettuale, per cui non recito una parte, certo. Metto a nudo anche i miei difetti, le mie ignoranze tantissime e le mie carenze, anzi sono ben lieto di parlare e fare dialogo con chi invece mi può dare qualcosa di più, come in questo caso. Oltretutto, un'altra mia attenzione sono questi luoghi, il quartiere d'Arsena a Ravenna è veramente molto particolare, Sì, è meraviglioso, sì, per me è bellissimo, è un posto via magazzini anteriori, via sì, questi nomi strani, questi palazzoni, questo crogiuolo di culture. Io ebbi l'occasione di andare quasi agli ultimi piani di questi palazzoni adiacenti al canale e mi sembrava di essere in Pennsylvania, mi sembrava di essere a Philadelphia. Puoi trovare, guardando verso il paesaggio urbano, un'eterogeneità di emozioni. Ci può essere una sinagoga, ci può essere un negozio emporio che vende di tutto, ci può essere un'architettura tradizionale, ovviamente il corso d'acqua, la presenza di emozioni e di sensazioni tra le più diversificate. E infatti anch'io quando guardavo queste immagini dicevo, mamma mia, ma qui c'è di tutto e di più racchiuso in uno spazio che è assolutamente da valorizzare, per cui sì, bravi. Infatti è un museo a cielo aperto, e anche questa architettura industriale che ha molti racconti da fare. Nel nostro progetto abbiamo due partner, Guardi in Camera, che ha raccolto dei video Super 8 di famiglia per raccontare l'area attraverso delle immagini appunto di famiglie, quindi ha creato un archivio meraviglioso, quindi si può vedere la stessa area dagli occhi di chi si fotografava, si filmava in quel momento lì. E poi Spazi Indecisi, un altro nostro partner, ha creato un'app che si chiama In Loco per visitare gli spazi dell'abbandono, e sono tutte proprio dei punti di vista diversi, delle cose raggiungibili ora, è per questo che è interessante, no? Perché anche una documentazione così ampia, magari uno non sa che c'è e potrebbe approfittarne passeggiando anche per scoprire queste cose. Sul cimitero di Ravenna, anche se è presente nella parte finale, senza svelare troppo, adesso non ricordo il nome dello scrittore ravennate molto talentuoso, L'uomo nero e la bicicletta blu, che per me è un capolavoro della letteratura contemporanea italiana per quanto riguarda le descrizioni di determinati aspetti dell'affascinante città bizantina, visto che mi occupo anche di letteratura, è un consiglio così che en passant posso dare. Delia, per avere informazioni con allora noi oggi facciamo appunto la presentazione ufficiale, quindi poi speriamo che possiate trovare facilmente le informazioni sui vostri giornali. Comunque, in alternativa potete sempre connettervi al nostro sito, che si chiama pandaproject.it. Nella prima pagina di oggi, perché aspettiamo appunto di presentarlo ufficialmente e poi carichiamo la pagina nuova, trovate tutte le informazioni. Bene, abbiamo detto tutto, direi. Abbiamo anche fatto un confronto fra emozioni e tecnologia, sì. Per cui è stato un last minute completo. Grazie. Grazie mille a te. Ogni volta che si parla di depositi della memoria o musei a cielo aperto, per me comunque è sempre un grande contenuto. Ti auguro una buona giornata, Delia. Grazie, e a presto. Anche a te. Ciao. A presto. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Con noi The Rookie of the Year, Pietro Rossi da remoto, vediamo se è già arrivato il contributo, lo stiamo aspettando, di Paolo Onofri. Allora, ogni anno dico quest'anno non parlo dello Star Game, a meno che non sia motivo di ricordo per il passato, mentre invece anche quest'anno vi sono state delle caratteristiche all'interno di questo confronto che daranno adito all'apertura del Mood Groove di oggi, martedì 20 febbraio. Un po' di musica, pubblicità, poi il Mood Groove di oggi. Restate sui 103.1, a tra poco. This ain't love.